Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovata Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica. Ivana, oggi solo a vedere l'ospite che abbiamo qui con noi sono già stanco, perché parliamo di Obstacle Course Race, la corsa ostacoli. Lo facciamo con il campione italiano della specialità, Stefano Colombo, benvenuto. Ciao, grazie. Per la precisione, due volte campione italiano e quest'anno anche campione del mondo di categoria. Stefano, allora, quando parliamo di corsa a ostacoli non parliamo di quella da fare in pista, quindi non so, i 3000 siepi, i 110 ostacoli, quindi pulita e tecnica, ma di una corsa con ostacoli belli fisici e impegnativi. Che gara è? Ma guarda, la domanda è che mi fanno un po' tutti, perché quando mi chiedono cosa fai te, si parla di ostacoli di ogni genere, per cui dal semplice muretto da sorpassare a ostacoli in sospensione più complessi o ultrasporti, o questi sono quelli artificiali o se no quelli che madre natura ci mette a disposizione, per cui si calcolano anche le salite impegnative o i guadi di piccoli torrenti, a volte anche dei pezzi a nuoto. Ma come ti sei avvicinato a questa disciplina? Io ero un ragazzino molto secco, diciamo così, e giocavo a calcio. Per irrobustirmi ho iniziato a fare un pochino di crossfit e casualmente in quel periodo è arrivata in Italia questa disciplina. Sono andato a provare con la mia palestra una gara semplice, così all'idroscalo, semplice da come le vedo adesso. Sono arrivato decimo assoluto su un migliaio di partecipanti e ho detto: attenzione, questa è la mia gara. Poi, come dice mia mamma, ce l'avevo nel sangue, già da piccolo mi arrampicavo sui mobili, ero sempre in giro a sporcarmi nel fango. Mi sembra un po' una specialità di derivazione militare, mi viene in mente un po' ufficiale gentiluomo con Richard Gere, no? Che fa questo percorso, è una roba tipo quella, no? Sì, nasce tipo quella cosa lì così, sì. Perché va a prendere appunto dei percorsi di addestramento proprio più che di guerra, per cui si va similar alcune volte al pentathlon militare, ovviamente senza lo sparo, ecco, che è classico. Del militare. A questo si aggiungono però non la pista ma paesaggi incredibili, e devo dire che come in Italia non ci sono posti uguali. E oltre ovviamente a questi ostacoli da superare, ma quanti chilometri sono proprio di corsa? Allora, possono variare, immagino, sì, no? Le gare ovviamente variano. Adesso le ultime sono proprio degli spari da un chilometro, tantissimi ostacoli da fare sempre con il fiato al limite, o se no gare di resistenza più lunghe, fino ad arrivare la più lunga di tutte a una maratona praticamente. Dove gli ostacoli sì sono molto separati, dilatati, esatto, però si fanno giri incredibili. Io sono più specializzato sulle medie corte distanze, per cui mi piacciono tantissimo appunto gli spari corti fino ad arrivare alle 15-20 km, ecco. Invece come ostacolo cos'è che ti piace di più? Assolutamente quelli in sospensione, più tecnici, più da scimmia, diciamo. Ah, davvero? Quindi appeso, sì, alle corde o... Corde, anelli, nunchaki, oramai ne inventano di tutto e di più, stile Ninja Warrior, ecco. Ok. Non si va mai a esagerare come in quella trasmissione, però si avvicina moltissimo, si va a usare molto più che la forza, la tecnica a volte. E com'è la tua settimana di allenamento? Sono molto curiosa. È una disciplina in cui tu devi essere completo in tutto se vuoi fare risultato, per cui devi passare dall'allenare la corsa pura su lunghi oppure su ripetute di 500-1000 metri ad allenare la forza per i trasporti o il semplice proprio appendersi a una sbarra e tirarsi, e invece se possibile andare in strutture dove ci sono campioni e istruttori che ti vanno a insegnare la tecnica migliore per superare l'ostacolo in maniera ecologica, diciamo, perché sembra una cosa superficiale ma in realtà fa tantissimo, perché tantissima gente arriva all'ostacolo non al primo ma magari verso gli ultimi, che è esaurita di forze perché l'ostacolo di prima li ha fatti tutti di forza. E invece poteva usare la tecnica e risparmiarla. Okay, perché la difficoltà credo che in questo sia nel a parte la parte diciamo di corsa pura, no? Poi se arriva una parte dell'ostacolo e quello ti mette in crisi, nel senso arrivi poi esci dall'ostacolo col fiatone comunque. Esattamente, io in moltissime gare incontro alla partenza gente con maglie di atletica ufficiale che ti partono una velocità incredibile, te la tengono, ma appena arriva un ostacolo, due muretti, loro non sono abituati, sì, sì. Il cuore salta e tu li freghi. Sì, c'è una variazione molto importante, sì, rispetto a quasi sì, la capacità fisica di passare appunto dalla corsa all'ostacolo e subito dopo riprendere a, sì, correre non è una cosa da poco conto. Quindi anche questa cosa qui va allenata, nel senso, quando tu esci da un ostacolo devi riuscire a ritornare col fiato nella giusta posizione, anche i battiti e tutto, quindi magari ti allenerai anche, esatto, esatto, ad infatti affrontare questa fase. Nei singoli allenamenti non si va mai a lavorare su una singola cosa, si cerca di, che ne so, il martedì a fare corsa di ripetuta, però verso la fine si aggiungono sempre esercizi per alternare e quando non siamo in periodo gare, tipo adesso in stagione, si va a simulare le gare facendo, che ne so, 400 metri un esercizio, 500 metri altro esercizio, cose del genere, appunto per simulare, abituare il corpo a fare questi cambi. E per chi vuole iniziare a cimentarsi in una gara di questo tipo, da dove deve iniziare? Da cosa? Deve iniziare a farla. Però, diciamo, perché la gente ti vede da fuori, sente che parli questa cosa, dice no, non la farò, non mai, farò mai, è da pazzi. E te dici va bene, vieni a vedermi. Vengono a vederti la prima volta, vedono l'ambiente che è bellissimo, vedono la cosa, le persone che si faticano ma si divertono, perché alla base c'è sempre quello, e dicono ma sì, proviamo. Dopo non è che ti dicono non lo faccio più, dicono sì, sì, ma sì, la prossima quando è un po' effetto maratona, diciamo. Infatti, ma è pericoloso anche, perché alcuni magari lo vedono e dicono mamma mia, mi faccio male. Sì, allora il pericolo tra virgolette lo vai un po' a cercare te, nel senso esiste, però sei te che decidi come muovere il tuo corpo, per cui una fune da salire a 5 metri è pericolosa, sì, perché se cadi su in alto, ok, però se sai la tecnica per salire in modo sicuro e non è che quando sei sopra suoni la campanella ti lasci andare, no, la scendi con calma, c'è chi, i pazzi come me magari vengono giù in stile Navy Seal, invece gente che adagio senza neanche guardare in basso. Giustamente. Ecco, io già quella non potrei farlo perché soffro di vertigini, quindi. Stiamo comunque parlando, nel senso che parlavamo di amatori che si approcciano a questa gara, stiamo parlando di un movimento, quello della corsa a ostacoli, che sta crescendo del 100% all'anno, per cui numeri importanti. E la cosa particolare è che un terzo dei partecipanti è donne, quindi insomma sfatiamo un po' lo stereotipo, fortunatamente un po' passato, che le donne si approcciano solo a degli sport leggeri, no? Assolutamente, questa cosa nelle obstacle race è una delle cose che mi piace di più, perché non è tanto la fatica che tu fai, il movimento poi che tu trovi in ogni gara, è il superare la sfida con te stessi. Questa cosa non è maschile, è dell'essere umano, maschile, femminile, bambini, ce n'è per tutti, di tutte le età tra l'altro. Poi c'è un approccio magari anche per chi inizia un po' più ludico, immagino, no? Per cui c'è il fatto, non è solo pura corsa, ma anche c'è appunto il divertimento, il superare un ostacolo. Poi mi raccontavi prima fuori onda che ci sono delle gare da fare in team, no? Con altri, sì, amici. Sì, sì, lì tutti iniziano perché mi ha detto l'amico che c'è questa roba qua, andiamo a provare a farla. Dopo magari ti prendi un pochino per il culo quando lui non ce la fa, peccato che l'ostacolo dopo tocca a te essere preso, capito? E nasce tutto così. Dopo ci sono delle gare, come ti ho detto prima, da fare apposta in gruppo, in cui ognuno, per quelli seri diciamo, per gli elite, in cui ognuno ha la propria fase, che ne so, la velocità, la tecnica, la forza, ma poi comunque c'è sempre gli ostacoli da fare tutti assieme, roba che da solo è impossibile da fare, devi per forza lavorare di squadra. Ed è bellissima questa cosa perché crea un'unione incredibile. Sì. Poi dicevi anche che poi c'è il campionato italiano, c'è il campionato europeo, il campionato mondiale, che è aperto anche agli amatori. Assolutamente sì. Per quanto riguarda le gare, allora il percorso è sempre uguale, gli ostacoli sono sempre uguali. Se vuoi partecipare competitivamente devi qualificare attraverso gare di qualificazione. Dopo starà a te decidere se partecipare nel tutti contro tutti, quindi nell'elite, oppure in quelli della tua categoria d'età. Finiti tutti, tra virgolette, i professionisti, che in realtà non siamo, sono veramente sulle dita di una mano, chi vuole provare la sfida sul percorso mondiale europeo può farlo nella Open. E il mondiale sarà a Londra l'anno prossimo? Il mondiale sarà a Londra il 15 ottobre. Ok, fortunatamente in Europa questa volta. Quest'anno in Europa, sì, dopo due anni nel Nord America siamo, tra virgolette, su territorio amico. Grazie a Stefano Colombo. Grazie a voi della opportunità che ci avete dato di far conoscere questo stupendo sport, che invito a provare a tutti. Sicuramente. Anche a voi. Grazie. Allora Ivana, dopo tutti questi ostacoli rimettiamo i piedi a terra con Francesco Pupi che ha il telefono con noi. Ciao Francesco, bentornato a Personal Best. Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao. Allora, campione del mondo di corsa in montagna e lunghe distanze, ora anche maratoneta, visto il tuo esordio alla maratona di New York. Com'è andata? Sì, sono finalmente un maratoneta anch'io e sono molto contento di avercela fatta finalmente. Allora, la gara non è stata semplice perché, vabbè, è un esordio in maratona, poi a New York non penso sia facile. Comunque io quel giorno non mi sentivo benissimo, probabilmente anche perché le ultime settimane di preparazione non erano state perfette. Diciamo, ho avuto qualche difficoltà fin da subito, che però sono riuscito anche abbastanza a gestire e alla fine concludere la gara in maniera soddisfacente, insomma. Come tempo finale, all'inizio, cioè in partenza speravo di fare un po' meglio, però alla fine, cioè, ripensandoci, come esordio a New York, essendo la prima gara, può starci e sono comunque molto contento dell'esperienza. Poi, insomma, New York è un percorso, non è facile, insomma, iniziare con quel tipo di maratona, sei stato davvero bravo, complimenti. Grazie. Cioè, effettivamente il percorso non è semplice, ci sono cinque ponti, c'è il vento. Poi la parte finale. Sì, la parte finale. Non era ottimale come clima. Però vabbè, più che altro dipende un po' da come stai, dalle sensazioni, che quel giorno lì non erano proprio perfette e ogni cosa alla fine incide un po' sul risultato e, però alla fine quello che mi ricorderò è soprattutto l'esperienza, quindi io mi porto a casa sicuramente un ricordo stupendo questa maratona e di aver avuto la possibilità di correre da elite a New York. Vicino poi a, non che tu non lo sia, ma però vicino a grandi campioni. Sì, sì, beh, certamente molto più di me. E ascolta Francesco, quindi qual è la prossima? Ma io non ci ho ancora ragionato, però penso che andrò con calma e quindi la prossima la affronterò circa tra un anno, penso autunno 2018, perché comunque vorrei dedicare la prima parte di stagione del 2018 a migliorare un po' anche su distanze più brevi, che penso possa essere utile anche poi in prospettiva maratona. Sempre su strada quindi? Sì, sì, sicuramente la prima parte di stagione sarà sia su strada che sui cross, come un po' da tradizione, e poi magari verso l'estate ci si sposterà un po' di più sulla montagna. E nel frattempo ti stai per laureare, no? Ci siamo? Sì, ormai anche quello piccolo traguardo che sta arrivando è lunedì, dovrei riuscire a laurearmi. Okay. Il titolo della tesi? È un lavoro sul fotovoltaico, è la caratterizzazione di un elettrodo per celle fotovoltaiche di un materiale un po' particolare. Okay. Ricordiamo che tu ti laureerai in fisica, giusto? Sì, in fisica. Complimenti davvero. Grazie. In bocca al lupo per domani soprattutto. Grazie mille. Complimenti Francesco, a presto. A presto, ciao. Ciao. Allora, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo il nostro indirizzo mail per i vostri commenti e le vostre domande, personalbest@radio24.it. Buona domenica. Buona domenica a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.